Fermi tutti, non ve ne andate perché sta per iniziare i Fuori Posto. I Fuori Posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Rieccoci qua, ciao Filippo, benvenuto. Benvenuto a te Umberto, ciao. Ebbene sì, rieccoci qua a parlare sempre di coloro che cercano un posto al mondo, di coloro che non hanno posto al mondo, di coloro che ce l'avevano e purtroppo ahimè l'hanno perso, Umberto. Sì. Io l'ho perso. Sì, lo sappiamo. Il mio fuori posto, io sono andato fuori posto, no? Quando la mia ex, no, mi ha detto ciao, questo per dirlo in maniera elegante. E intanto sta diventando un caso nazionale perché continuano a scriverci su ifuoriposto@radio24.it una ridda di messaggi. Chi ti raconsigli, chi ti invita a rinunciare ormai a questo amore purtroppo perduto, Umberto? Sì, perché poi alla fine, Filippo, il mondo ruota intorno all'amore, no? Voglio essere banale. Il mondo ruota intorno all'amore. Siamo banali. Quindi parte Fuori Amore, mi pare di capire. Eh beh, dalla musichetta l'ho intuito. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the prize. Umberto purtroppo si scuote sempre quando sente questa canzone. Mi emoziono perché penso a lei, no? E penso che è bello, no, quando ti innamori, quando le incontri, quando gli occhi si incrociano, no? E c'è qualcosa di magico. Sì, c'è la magia dell'amore, poi, no? Sai, finché le cose vanno bene, l'amore è meraviglioso. Poi finisce, ma l'importante, secondo me, è che l'amore finisca prima che uno si sposi. Sì, perché se uno si è sposato poi sono cazzi, sì. Perché c'è da dire, no, che molte coppie, no, prese dal colpo di fulmine, sì, la passione travolgente, no? Ora io non sono arrivato al matrimonio, no? Purtroppo dico purtroppo. Ma buon per te invece, Umberto. No, per te, scusami io dico purtroppo non sono arrivato al matrimonio, anzi io sogno il giorno del matrimonio, no? Con quella che è la mia ex, ma insomma non è detto. Però poi quando invece arrivi al matrimonio, no? E ti accorgi, dici scusa, forse ho sbagliato, tu non sei la mia donna ideale, no, scusa, tu non sei quello che fa per me. Che succede, Filippo? Succedono dei cataclismi perché arrivano gli assegni alimentari, arriva la causa di separazione, devi trovare l'avvocato che ti difenda perché poi diventa una guerra, no, uno contro l'altro. Sì, diventa proprio, che ne so, Barcellona-Real Madrid. Sì, no? E chi ha i giocatori più forti vince, chi ha l'avvocato più bravo limita i danni. E tra gli avvocati più bravi, no, chi c'è? Abbiamo l'avvocato Lorenzo Puglisi, grande esperto di diritto di famiglia, ed è con noi. Buongiorno avvocato. Grazie mille, buongiorno a lei e a tutti i vostri ascoltatori. Allora, intanto avvocato, qui siamo in Fuori Posto, quindi diamoci del tu, va bene? Va benissimo, allora, grazie. Uno può finire fuori posto e forse anche fuori di testa, no? Quando si separa? Beh, direi assolutamente sì, soprattutto se non ci si mette d'accordo su come crescere i propri figli. Spesso e volentieri la cucina o comunque, diciamo, alcuni aspetti legati alla dieta alimentare fanno la differenza. Questo è uno dei motivi per cui proprio in questi giorni si dibatte di questo tema. L'avvocato ci dice questa cosa, no? Perché, è interessante, sì. Sì. Sai perché, Filippo? Perché? Perché dice questa cosa? Perché pare, no, che tra le cause di separazione, io pensavo, che ne so, finisce la passione, finisce l'amore. Sì, oppure c'è l'infedeltà, io mi ricordo, no? L'infedeltà è la cosa principale. Gira che ti rigira, ribatti sempre là, c'è l'infedeltà. No, ma che c'entra l'infedeltà? Invece tra le cause di separazione, pensa, sai qual è la novità? No, qual è? Che infedeltà a parte, no? Che potrebbe essere uno dei motivi, no? Ma il 30% delle coppie, c'è stata una vera e propria statistica, giusto avvocato? Sì, assolutamente. Pensa, il 30% delle coppie si separa per la dieta, no? Se uno per dei la due, dieta. Sì, se uno dei due è vegano, se uno dei due della coppia è vegano, no? Le possibilità di separazione aumentano del 30%. Ma così tanto, avvocato? Sì, allora, diciamo che ovviamente il discorso è molto più complesso, chiaramente, però volendo così ridurlo alle estreme conseguenze, diciamo che spesso l'individualismo del singolo coniuge spesso prevale sul benessere della coppia, per cui uno dei due cerca di imporre all'altro il proprio regime alimentare, aumentando a dismisura la conflittualità di coppia che già di per sé esiste, è connaturata al rapporto che ciascuno di noi ha col proprio partner. Però diciamo che imporre determinati regimi alimentari può incentivarlo di gran lunga, ecco. Ma lo sai una cosa, ora che ci penso, io per un periodo della mia vita sono stato semi vegetariano perché mi ero convinto che mangiare carne facesse male. E effettivamente con mia moglie ho iniziato ad avere grossi problemi, perché lei era onnivora, soprattutto è quella che a casa cucina, e a un certo punto dice: oh, mi hai rotto le scatole, perché io devo fare due cene, una per me, per i figli, e una per te che stai diventando vegano vegetariano. E veramente anch'io ho rischiato una certa crisi, questo effettivamente è vero. Quindi io direi che se siete in crisi, no, almeno non diventate vegani, perché le probabilità di separazione aumentano, giusto avvocato? Beh sì, esatto, si può dire anche in questi termini, chiaramente. O comunque se decidete di mettervi insieme a una persona vegana, o lo siete anche voi, siete ferventi, cioè siete convinti di questa dottrina, o altrimenti lasciate stare, ecco. Però mi permetta una domanda. Anche lì è rischioso, no? Perché se io mi fidanzo e mi sposo con una vegana e poi a un certo punto mi rompo le scatole e decido di diventare carnivoro, o comunque di avere una dieta più ampia, il nostro rapporto potrebbe entrare in crisi, giusto? Sì, esatto. Esatto. E devo venire da lei. Sì, questo mi farebbe molto piacere. Chiaramente grazie. A me un po' meno. Immagino. No, beh, ovviamente alla base di tutto c'è il buon senso, per cui a prescindere dal sentimento, che poi negli anni si sa va sfumando, ma se c'è il buon senso questi problemi si possono risolvere, quindi non necessariamente poi si finisce ai ferri corti. Senti, certo, avvocato, ce l'hai, tu insomma avrai affrontato vari casi di questo genere, ci puoi raccontare un caso clamoroso di marito e moglie che si lasciano per colpa del regime alimentare? Sì, allora, non tanto legato al veganesimo, quanto piuttosto legato al regime alimentare della suocera. Diciamo che uno dei casi più emblematici è proprio quello del marito che vuole imporre il regime alimentare della suocera alla nuora, quindi alla propria moglie, e questo è causa di separazione, proprio perché non si riesce ad arginare il ruolo invadente della propria madre, quindi della suocera. E questo perché c'è qualcuno che dice: da oggi stiamo insieme, siamo sposati e mangi quello che dico io. Mangi quello che dice mia madre. Ancora peggio, è un incubo. Esatto, sì, va sì, bene. Grazie mille, avvocato. Prego. Grazie. Allora, Umberto, noi abbiamo in linea qualcuno che in futuro, speriamo di no, potrebbe aver bisogno dell'avvocato Lorenzo Puglisi. Sì. Uno che addirittura, no, un regista di successo. Un no, regista Filippo? Molto famoso, si chiama, lo diciamo, Fausto Brizzi, famoso per Notte prima degli esami. Maschi contro femmine, ex femmine contro maschi. E lui, Fausto, no? Da convinto carnivoro, no? Giusto? Noi possiamo dire che Fausto ha una storia molto particolare, per cui era un onnivoro e soprattutto un grande carnivoro, e per amore è diventato vegano. Infatti Fausto, no? Che è un nostro amico, era fuori posto, no? Poi ha trovato un posto, insomma, come regista e anche di successo, no? Poi è riandato fuori posto perché ha sposato una vegana, esatto. No? E ci ha scritto pure un libro, è vero Fausto? È vero, un libro di memorie. Ciao Fausto, ciao. Benvenuto ai Fuori Posto intanto. Ciao Fausto. Ciao ragazzi. Senti, ho scritto un libro dedicato al futuro avvocato divorzista, proprio l'introduzione dedicata al futuro avvocato divorzista di mia moglie. Noi ce l'abbiamo già un nome, avvocato Lorenzo Puglisi. Se ti interessa ci fa uno sconto magari. Nel quale dico che tutto quello che è scritto nel libro è vero, e sto accumulando insomma delle prove, delle vessazioni a cui sono stato sottoposto in vista di un futuro possibile divorzio. Speriamo di no, eh. No, raccontiamo questa tua storia d'amore, no? Tu eri appunto un onnivoro, un carnivoro, un giorno incontro questa bellissima ragazza che invito a cena, lei accetta, mi nasconde un'informazione. Mi nasconde che è vegana. Io la porto in un ristorante famoso per i salumi di Cintasenese e dei latticini che vengono direttamente in tempo reale da Caserta, e lei per tutta la cena vedo che non mangia niente, ma io penso la solita ragazza attenta alla linea eccetera, e mi osserva con uno sdegno, proprio con quasi orripilata, mangiare lo squacquerone, cose insomma buonissime che piacciono notoriamente a tutti, tranne che ai vegani. Certo. Diciamo c'è una sottile differenza, no, tra lo squacquerone e il tofu, no? Ma cioè, il colore è uguale. Ah, vabbè. Giusto il colore. Messo in bocca, uno sa di niente. Ma in realtà, pezzo una lancia a favore del tofu. il tofu alla matriciana è buonissimo, il tofu alla carbonara, cioè se ci metti un condimento di una certa importanza, il tofu alla fine fa la sua porca figura. Sentire Fausto che ormai è comunque un certo diciamo convinto del tofu, perché poi come andare avanti questa serata e poi questa storia? Questa serata è andata avanti malissimo, perché lei mi ha rivelato ovviamente che era vegana e che mi vedeva come una specie di predatore carnivoro con il quale non si sarebbe mai accoppiata in vita sua, e si è conclusa con lei che mi diceva: peccato, mi piacevi molto, purtroppo morirai presto. Ammazza, ti alimenti così. Porca miseria. Scusa, sì, Fausto, perché... Fausto, scusa, ti interrompo un secondo per dirti che ci ha scritto adesso al nostro WhatsApp Emiliano da Roma, che dice: a Fausto, notte prima degli esami è un capolavoro, ma il tofu con la matriciana non si può sentire, mortacci tua. Che gli diciamo, Emiliano? Gli diciamo che c'ha ragione, che c'ha ragione, perché la maggior parte dei piatti vegani, la verità è che tentano di fare delle imitazioni, almeno col nome, insomma, dei piatti normali, no? Cioè, tentano di essere alla carbonara, alla matriciana, alla qualcosa che ti ricorda un vecchio sapore di una volta. Che rimane alla. Sapore, che rimane alla e basta, insomma. Però la verità è che sono piatti assolutamente, cioè insomma, la pasta pomodoro e basilico è un'altra vegana, cosa, no? Però... ma è vegana. Ah, cioè, è considerata vegana. Cioè, meno male, almeno quello. Assolutamente sì. Insomma. Dovrebbe essere un piatto che mette d'accordo un po' tutti. Ma la pasta, qualsiasi pasta è considerata vegana o c'è una pasta proprio No, qualsiasi fatta. Pasta. Poi è chiaro che la pasta col glutine è meno sana della pasta senza glutine, ma quello è un problema, diciamo, di alimentazione sana. Certo. Cioè la maggior... quando... attaccano, diciamo, l'alimentazione vegana. Adesso spezzo una lancia fuori i vegani, io faccio il vegano part time, quindi diciamo che paraculo, un occhio, che paraculo, un po' più obiettivo. Che paraculo. Quando attaccano l'alimentazione vegana è perché le patatine fritte sono vegane. Appunto. Ah, hai capito, cioè, vedi? Ma non per questo sono sane, insomma, certo. Quindi... Ma Fausto, torniamo alla tua scelta eroica, perché dopo quella sera, per fortuna, tra te e tua moglie le cose sono andate bene. Tu hai compiuto una scelta clamorosa nella tua vita a un certo punto. Sì, ho dovuto bonificare casa mia, insomma, da formaggi e qualsiasi cosa non vegana. E quando siamo andati a vivere insieme, promettere a Claudia che a casa non entrava niente di origine animale. Ecco, e come va adesso la convivenza fra te e questa tua moglie super vegana? La convivenza va bene, per fortuna mia viaggio molto per lavoro. Quindi quando stai fuori casa non sei vegano? Faccio degli strappetti alla regola, però con degli strappetti, che c'è pure che te sente Claudia? No, lo sa. Lei mi dice: guarda, puoi fare quello che vuoi, basta che me lo confessi, insomma. Lei quando torna a casa, quando viaggia lei invece, torna a casa, lei va subito al frigo, non va a letto a cercare un reggiseno, va al frigo a cercare tracce di stracchino. Se l'è tradita con lo stracchino. Scusa, ma si può dire che stacco una vegana è un po' una fatica, no? È un po' una fatica, sì, e le mie analisi del sangue però sono migliorate in una maniera così netta che la verità è che c'ha ragione lei. E c'ha ragione nonostante io sia un vegano sui generis, nel senso che comunque il pesce due volte a settimana lo mangio, insomma, non mangio più la carne. Senti, io ho letto il tuo libro, no? Anzi, facciamo un appello, no? Magari dietro magari una piccola percentuale. Fausto, se ci dai una piccola percentuale sulle vendite, noi possiamo fare qui in radio un piccolo spot a favore del tuo libro. Se vuoi, noi possiamo dire che è bellissimo, tanto l'abbiamo letto. Ora non ci sente nessuno. Potete, ma non lo credete. Cioè, credete in realtà in confidenza tra di noi. Che ne pensate? Ma cioè, tu dici prima se ci dai la percentuale, poi ti diciamo quello che pensiamo. Subito, assolutamente. Subito. Il libro è bellissimo. Il libro è fantastico. Sposato una vegana. Comprate il libro. Devi vedere delle cose di più. Allora, comprate il libro di Fausto Brizzi, bellissimo, no? Bravo. Mi raccomando, comprate tantissime copie del libro quante di Fausto più possibile. Quante, anche 3, 4, insomma, 18, perché 20, 100. Natale incombe. E bruciatele nel barbecue. Natale incombe. E quindi compratele perché... così Umberto ci paghiamo le vacanze estive con la percentuale. Almeno una piccola percentuale. Non si butta via niente. Senti Fausto, io ho letto il libro, tutto. Scherzi a parte, no? Ma c'è una cosa che secondo me tu da sceneggiatore, da regista ti sei inventato, no? Che è la seguente. Quando esci... nel tuo giardino, no? Quando vai fuori al tuo giardino e vedi tua moglie Claudia, no? Brucare l'erba, cioè tipo a quattro zampe che mangia l'erba. Questa scena è incredibile, io non ci credo, Fausto. Allora, magari l'avessi inventata. No, non era il giardino, era un terrazzo. Purtroppo Claudia ha seminato dei vasi in terrazza di un'erba particolare, non... che ha delle proprietà digestive, eccetera, che lei afferma che va presa alla fonte, cioè non va tagliata, perché sennò si ossida e perde alcune proprietà. Mamma mia. E quindi va lì e la mangia direttamente dalla pianta. Io ci ho provato. No, non ci credo. Pure tu provato, anche sì, tu hai brucato, Fausto. Possiamo pensare. Una notizia. Fausto Brizzi, noto regista e ha grande brucato, scrittore, ha brucato l'erba. Pensa quanto varrebbe uno scatto di Fausto Brizzi che bruca l'erba. Io so dove è Fausto. Ci sono prove? No, per fortuna mia no, peraltro ho scoperto che diciamo la nostra dentatura non è propriamente da erbivori, insomma. E invece noi ce l'abbiamo. Se volete vedere Fausto Brizzi che bruca l'erba, andate sulla nostra pagina Facebook Fuori Posto, @radio24.it, e potrete trovare la foto di Fausto. Fausto, se c'è qualcosa, noi questa foto la ritiriamo, non la diffondiamo, basta metterci d'accordo. Quanto sei venale, Filippo? Grazie, Filippo. Vabbè, le vacanze si avvicinano. Io ho famiglia, tengo famiglia. Quindi... Ma dove vuoi fare le vacanze? Alla Dispoli o ai Caraibi? Ma vorrei fare le Caraibi, perché è una vita che la faccio alla Dispoli. Quindi, Fausto, dammi una mano. Senti, allora, vabbè, Fausto, noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo, no? Ti fiamo per il tuo matrimonio. Speriamo che regga. Tu tienici aggiornato e magari scrivi un altro libro, insomma. Sto scrivendo il seguito. Quindi molto curioso. Ma il titolo quale sarà? Ho sposato una vegana e sono felice così così, oppure? No, il titolo del libro sarà Se prima eravamo in due. Ovviamente mi è nata una bambina e adesso sono diventate due contro uno. E anche la bambina è vegana? Beh, per ora succia la tetta, quindi è assolutamente naturale. Proteine animali, vabbè. Animali, esatto, quindi forse non è vegana. Grazie Fausto. Ciao, abbracci. Va bene, Umberto, a quanto pare Fausto per ora non ha ancora bisogno del nostro avvocato divorzista, quindi no. La coppia regge per ora. No, per ora però, per ora. Sai che ho capito, no? Che essere vegani è una fatica. È un lavoro. Devi selezionare in maniera certosina i cibi da ingerire. Sì, perché poi, insomma, molti vegani, sai che dicono? Che mens sana in corpore sano, no? Cioè, nel senso che... Ovviamente un'alimentazione, uno stile di vita sano, no? Aiuta a essere più sani, più svegli, certo, e anche più belli, no? Però per i non vegani, no? Per quelli che non sono vegani, no? E che, come dire, quelli che si mangiano a bistecca, matriciane, mozzarella, pensa, tutto. Noi abbiamo comunque una soluzione, no? Quindi, e qual è? Visto che ormai siamo in piena estate, quindi non so se ci siamo con i tempi, no? Ma la soluzione, sai come si chiama? Come si chiama? Si chiama Giacomo Urtis, ah, no? Ah, Giacomo Urtis! Che è un chirurgo molto fuori posto, sai perché? Perché fuori posto? Perché Giacomo Urtis è un medico, no? Specializzato in, credo, in chirurgia estetica. Interventi, no? Se li fa sul proprio corpo. Ah, cioè, no? È un chirurgo estetico che opera se stesso? Sì, magari non fa proprio le auto-operazioni, però insomma, adesso... so che lui è esperto in un'operazione dove nel giro di poco tu c'hai la panza, sì. Tipo, quindi tipo te, sì. No? Ma aspetta, fermo, che tipo? Invece un fisico perfetto. Quindi, che stai se dicendo? Allora io ti dico che con Giacomo Urtis, il chirurgo dei VIP, il medico dei VIP, no? Se tu c'hai la panza, ti operi e nel giro di, come, che dire, pochi giorni puoi avere gli addominali scolpiti. Tu c'hai la pancia, no? No, non c'ho la pancia, comunque vai tu avanti. C'hai la pancia, tu c'hai la pancia, lo vedo, ecco qui, che c'ho alza la camicia, alza la camicia. Non c'ho la pancia, tu c'hai la pancia, ti operi, no? Con Giacomo Urtis, che si è inventato questo nuovo tipo di operazione, no? E nel giro di qualche settimana potresti avere gli addominali scolpiti. Addirittura? Sì, comunque, per levarci qualsiasi dubbio, no? Dirimiamo il dubbio. Sì, chiediamolo direttamente a lui. Ci sei, Giacomo? Buongiorno ragazzi. Allora Giacomo, è incredibile quello che diceva Umberto. Io ho accertato perché sono andato a vedere qualche foto su internet e ho visto la tua immagine prima e dopo l'operazione. Prima l'operazione, te lo dico la verità, c'avevi un fisico un po' ridicolo, la panzotta, tutto floscio. Dopo un po' di pancia, un po' di maniglie. Maniglie, non so, eri quasi impresentabile, non ti offendere. Vabbè, non esagerare. Poi, sì, eri impresentabile. Cioè, faceva quasi schifo. Facevi schifo. Poi però ho visto la foto del post intervento. Porca miseria, c'è un fisico da atleta, da tartaruga sulla pancia, sì, sì. I muscoli, i bicipiti. È diventato un bel ragazzotto veramente. Come hai fatto? È un tipo particolare di liposuzione dove si elimina completamente il grasso e con delle canule particolari, con una tecnica particolare, si fa stringere la pelle e si creano delle microaderenze in modo tale da dare il disegno della tartaruga piuttosto che il disegno del bicipite, piuttosto che il disegno della parte del corpo che si vuole scolpire. Quindi è una scorciatoia, diciamo, anziché fare palestra e tanta attività fisica, uno se fa questa operazione arriva ad avere un fisico meraviglioso, scolpito. Ecco, allora, molti di quelli che mi contattano dicono, mi chiedono, ma se io faccio questo intervento poi non posso mangiare quello che voglio, poi non faccio palestra, poi non faccio una vita sana. No, tutte queste cose vanno fatte, cioè comunque anche se hai fatto questo intervento devi mangiare bene, cioè non si possono mangiare troppi dolci perché sennò uno comunque si ingrassa, e bisogna andare in palestra perché anche se tolgo tutto il grasso e il muscolo è flaccido, ti si vede poco. Ma lo fai tu questo intervento? Cioè sei tu che aspiri lì con una specie di aspirapolvere il grasso dal corpo? Diciamo che per fare questo intervento ci vuole comunque sia un'equipe di persone, di chirurghi, perché è un intervento abbastanza lungo e complesso. Quindi... Però nel giro di qualche ora poi uno ottiene il fisico che ha sempre desiderato. Naturalmente la ripresa è un po' lenta, fai che si può tornare in palestra al quindicesimo giorno, quindicesimo, ventesimo giorno. Gioca una curiosità. Si rimane più o meno gonfi sino per un mese, per il mese successivo. Ma una curiosità, no? È un'operazione costosa? E diciamo che varia, cioè se fai che so, solo gli addominali si parte dai 6-7 mila euro in su. Porca miseria. Mm. E tutto il corpo si arriva, può arrivare anche a 40. 40.000 euro? Però è un intervento che cambia completamente il corpo. Una cosa abbastanza un po' particolare. Non è una liposuzione così tradizionale. Però sono sempre 40.000 euro, insomma. Non sono... Cioè, quindi è un'operazione per ricchi, diciamolo. Parliamoci tra virgolette. Chi ci tiene al fisico spende, secondo me, negli anni molto più di 40.000 euro. Allora, sai quale potrebbe essere un'idea, Giacomo, Filippo? Dimmi. Cioè, convincere Renzi, no? E il ministro della salute, no? Sì. La Lorenzin, a far passare questo intervento alla mutua. Un bonus per questo intervento. Fisico scolpito per tutti. Beh, sicuramente magari per gli obesi è una cosa... Cioè si potrebbe fare un intervento simile per gli obesi e quindi farlo passare per la mutua, ma per gli obesi che veramente ne hanno bisogno, ecco. Fai una cosa, rivolgiti tu al ministro, a Renzi, no? Con un appello per far sì che questo intervento possa essere passato dalla mutua. Vai. Caro Renzi, siccome in Italia si mangia anzi si mangia anche troppo bene, e purtroppo ci sono molti obesi, e perché non aiutarli con un intervento che può risolvergli la vita? Dai, ascolta l'appello del dottor Giacomo Urtis. Caro Renzi. Allora, caro Giacomo, siccome tu c'hai un sacco di cose da raccontarci. Parecchie. Mamma mia. Sì. Non tutte, non posso. Ci penseremo noi a farti sbottonare. Non tuttissime, no, ma noi cercheremo di, come dire... strapparti qualche segreto, no? Perché segreto. Allora facciamo così: facciamo solo qualche minuto di pausa, no? Va bene. E torniamo tra pochissimo ai Fuori Posto, sempre qui su Radio 24. A fra poco con Giacomo Urtis, il chirurgo dei VIP. Il prosecco e i lombrichi, la spara parmigiano e i pomodori idroponici. Ma anche fritture di meduse. O risotti di alghe. E le olive spremute con gli ultrasuoni. E i frutteti verticali. Tutto questo è Foodlab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì alle 15. Qui su Radio 24. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a una Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto tutti i giorni alle 16, qui su Radio 24. I fuori posto. Eccoci qua, Filippo, siamo con Giacomo Urtis, il chirurgo dei VIP, no? Sì, che ci ha dato un'informazione molto interessante. Io e Umberto possiamo risolvere il nostro aspetto fisico così decadente con un'operazione che però costa 40.000 euro, però con risultato garantito. No, però Giacomo ha detto che fa gli interventi, non i miracoli, Filippo. Con noi serve il miracolo. Soprattutto... Per me sarebbe un miracolo, impossibile. Cioè... È possibile. Per due motivi. Sai perché? Quali? Perché, primo, perché Giacomo Urtis, anche se pare sia molto bravo, non fa i miracoli. E due, perché non ci abbiamo 40.000 euro. Questo, diciamo, forse è il motivo più rilevante. A meno che no, i vertici di Radio 24 non vogliano aumentarci lo stipendio. Io penso che se andiamo avanti così, più che ci aumentarci cacciano. Lo stipendio, ci cacciano via. E Giacomo, ci sei? Sì, sono qua. Ciao, sono qua. Giacomo. Allora, carissimi. Senti, io ti ho presentato, no? Sì. Come il medico dei VIP, no? Perché tra i tuoi clienti, no, ci sono un sacco di personaggi famosi, giusto? Sì, beh, sì. Dici, chi hai? Diciamo, chi hai? Diciamo che in generale i personaggi famosi, chi lavora in TV, modelli che lavorano col proprio corpo, eccetera, hanno bisogno del chirurgo. Quindi non sono solo io il medico dei VIP. Giacomo, però dici una cosa, ci fai qualche nome? Chi sono i tuoi clienti? Oddio, ma non è che si denuncia. Ma no, ma che ti denunciano? Dai, siamo tra amici, dai. Giacomino, dai, siamo tra amici. Dici, dai, un nome, dai. Ma no, posso farti delle categorie. Allora, delle, facciamo così. Delle macro categorie. Facciamo così, non parliamo di clienti. Diciamo chi sono i tuoi amici VIP, giusto? Ma... Come amici? Chi sono? Io un po' di foto le ho viste su internet, perché mi sto molto informando su di te. Ho visto una foto. No, amici VIP ne ho tanti, essendo che vivo tra Roma e Milano, mi capita di entrare in contatto con tanti VIP. È quello. Per esempio, quali tipo? Sono? Non so, conosco da una vita Corona. Corona. È sempre un bell'uomo. Anche Filippo lo conosco molto bene. Anche Filippo lo conosco. Poi si tiene bene il Corona. No, ho visto, si tiene benissimo si tiene. Ma lo curi tu? No, è così di natura. Ma c'è stata, mi pare pure, adesso facciamo un po' di sano gossip perché fa caldo, siamo sotto l'ombrellone. C'è stata anche una storia d'amore tra te e Fabrizio, giusto? Ma no. Una storiellina. Dai, dacci questa esclusiva. Ma no. Come no? Un bacetto? Ma no, ma siamo amici da una vita, dai tempi del quando era sposato con la Moric. Ma tipo una notte di follia, no? No, siamo andati a cena. Sì, questa risatina è strana. Questa risatina, però, dice molto, un po' spiega. No? Scriveteci da casa, no? Ecco. Giacomo Urtis è stato il fidanzato di Fabrizio Corona, sì o no? Vediamo, lasciamo il mistero, giusto? Lasciamo il mistero. E quindi, a parte Corona, con chi sei amico, con chi vai a cena? Beh, ho tantissime amiche che lavorano in TV, non so, anche fare i nomi non è carino. Ma no, amiche, come nascondere, amiche? Perché nascondere un'amicizia? No, vabbè, ma... Pensa io quanto sono sfigato, come amico VIP c'ho Filippo Roma. Ah, bello! Lo so. Ti piace esteticamente Filippo Roma? Sì, carino. No, non sei convinto, abbastanza... non ti sento convinto. Ma tu in questo momento sei fidanzato o no? No, per niente, no. Sono single e sono in procinto di partire per le vacanze. Vado un po' a Porto Cervo, appunto, a vedere un po' di VIP. E poi andrò a Mykonos. Ok. E tu sei stato a Mykonos, mi ricordo. Sì, siamo stati. Senti, allora, io ti ho presentato, no, come il medico, no, che si è fatto anche, no, tantissimi interventi, no, giusto? Cioè, tu ti sei rifatto, non da solo, ma... Ti sei rifatto un sacco, no? Quante operazioni hai avuto? Beh, calcola che ho fatto i capelli, il naso, le orecchie, i fili, quella, insomma, per tirare un po' il viso. Tutto le sei rifatto. Il corpo, po' di cose, sì. Ma questo perché appunto quando uno lavora anche in questo campo è più spronato a provare, a sperimentare, sì. Andrea ci scrive: Aurtis, ma quella cosa là te la sei rifatta? Non so quella cosa là. No, però da settembre ho preso un brevetto che di un chirurgo di Beverly Hills che l'ha inventato, che è una protesi veloce da mettere nel pene. Aspetta, che mi interessa. Come funziona sta protesi? È un certo dottor Ellis che ha inventato una protesi che con un microtaglio si può inserire velocemente nel pene, lo può allungare di quasi 5 centimetri, in lunghezza che in larghezza. Però ritorna all'allungamento come argomento. Sì, un allungamento, ma molto bello perché è molto veloce. Ritorna all'allungamento come argomento. Ma scusa, Giacomo, ma non può essere nocivo per il pene, sta cosa un po' innaturale? No, perché è silicone, è biocompatibile, quindi non è tipo una protesi, quindi non dà fastidio. Ma ha effetti anche sulla funzionalità? No, beh, perché l'erezione va da sola, non influisce, però gli dà lo spessore e la lunghezza. Molto bello. Dello spessore conta nella vita. Sì. Ma tu insomma... Ma c'è una cosa curiosa, che quando adesso l'ho un po' pubblicizzata nei miei social con le mie pazienti, quelle più interessate sono le donne, non gli uomini. Hai capito? Quindi... Nel senso che le mogli mi chiamano per far fare questa cosa agli uomini. Quindi le donne potrebbero regalare, no, questo intervento. Bravo, ho visto questa tendenza adesso. E quanto costa? E siamo sugli 8.000 euro. Niente a buon mercato, da te. Tacci tua. I poveracci rimangono brutti. Lo so, quando si parla di chirurgia, quindi sale chirurgica, anestesia, cioè una cosa seria, al di là che non scherziamo, comunque sia, la chirurgia va fatta da esperti in cliniche e tutto questo costa. Senti, ma ti posso fare una cosa, tanto non ci ascolta nessuno, insomma, tranquillo. No. Ma questo intervento, visto che te ne sei fatti tanti, ti farei pure questo intervento? No, questo forse non lo provo. Senti, sei sicuro? No, lo vuoi provare? Io sono disperato, è un caso disperato il mio. Dai. Senti, Giacomo, ma invece qualche personaggio famoso che sta pensando a fare questo intervento? Senza fare nomi, ma c'è qualcuno che te l'ha chiesto? Fammi pensare, sì. Sì? Quindi sì, qualcuno me l'ha chiesto. Si può dire la categoria? Sì. Tipo, che ne so, sì, presentato un attore. Cinema? Un attore, fiction, bravo. Vabbè. Un attore. Sai che ti dico, Filippo? Visto che siamo in fuori posto, no? Facciamo un appello a quest'attore. Se tu, no? Facciamo così. Se tu riemergi dalle acque, esci allo scoperto, ci chiami adesso in questo momento in diretta, no? Ci dici: sono io l'attore che vuole fare l'intervento dell'allungamento, Filippo Roma ti paga l'intervento per intero, ok? Non sarebbe male, hai visto? Per intero, insomma. No, per intero, ormai l'abbiamo promesso. Se tu chiami... Però voglio nome, cognome e voce. Ottobre. Se tu perfetto, ottobre. Se tu chiami... Filippo Roma è disponibile a pagarti l'intervento, quindi 8.000 euro. Dice Umberto Lenzi. Sicuri? Sicurissimo. Sicurissimo. La vita non si è sicuri di niente. Senti Giacomo, tu mi dicevi che fai anche tanti altri tipi di interventi, no? Prima hai parlato di capelli. Noi qualche giorno fa abbiamo ospitato un ragazzo che si è inventato, non aveva il posto di lavoro, ma si è inventato sto lavoro, praticamente organizza dei viaggi tricologici, cioè porta i clienti a Istanbul e con 2.000 euro all inclusive gli fa vedere la città e gli fanno anche il trapianto di capelli. Tu invece lo fai in Italia questo trapianto di capelli? Sì, diciamo che lo faccio in Italia, ma ho diciamo dei contratti con la Grecia, che sarebbero l'altro polo famoso per fare i trapianti, e le bulbiste sono greche, perché sono famosissime per fare i trapianti. Ma comunque sia, da ottobre penso che metterò c'è un nuovo macchinario robotizzato che fa il trapianto da solo, completamente automatizzato. Cioè, praticamente tu importi un capitale umano, cioè tu fai venire le ragazze greche qui in Italia? Sì, le bulbiste. queste sì, le faccio venire perché sono molto specializzate nel trapianto, nell'innesto dei capelli, quindi sono come le turche, sono molto brave. Ah, vedi, turche e greche hanno questa specializzazione. Cioè, senti Giacomo, tornando ai VIP, sono molto curioso, no? Ma qual è il tipo di intervento più ricorrente che fanno da te? Sì, allora ti dico, vabbè, a parte le cose classiche che può essere, che ne so, il naso, il seno e il gluteo, che sono specializzato in glutei, quello più, adesso, più ricorrente è la liposcultura del viso, dove praticamente andiamo ad assottigliare il viso in modo tale che uno diventa più fotogenico e telegenico. Ah, pensa, cioè hai visto adesso i modelli, le modelle, chi lavora in TV, hai visto che hanno le guance scavate e disegnate? Ah, è vero, quello è frutto della chirurgia. È frutto tuo, sei tu. Già, ma è una cosa naturale, può rimanere o no? Dobbiamo essere tutti perfetti. Ma ti dirò, siccome siamo in un momento in cui sono esplosi i social, quindi un continuo fare foto, le blogger sono diventate adesso gli idoli delle persone comuni, le persone vogliono sempre assomigliare alla perfezione, cioè c'è una ricerca della perfezione soprattutto anche nel viso. Cioè, c'è qualcuno ancora che viene da te con la foto di un VIP e ti dice io voglio sempre il naso come lui? Veramente. Quello sempre, l'80% arrivano con la foto. No. Voglio la più gettonata col gluteo è la Kim Kardashian. Ah, cioè uno dice voglio il culo di Kim Kardashian. Sì. Tant'è che lei, perché? Perché ha 87 milioni di follower su Instagram e sui social. Senti, ti faccio una domanda, rispondimi sinceramente, perché è importante, perché capisco chi ho di fronte, no? Concentrati e dammi una risposta. Yes. Quanti anni è che fai il medico o chirurgo? Oddio, dai, che lavoro? Dai 24. 24. Quindi è in 24 anni? Ho 40, dai 24 anni che iniziavo a fare i primi interventi. Ah, quindi è 16 anni. Vabbè, comunque, quindi sono 40 adesso. Quindi sono 16 anni che fai interventi, giusto? Sì, bravo. Sì. Ok, e in 16 anni... è mai venuto un ragazzo, un personaggio, un uomo con la foto di Filippo Roma dicendo voglio il naso come lui, voglio la bocca come lui? No, non mi risulta. Come no? Devo chiedere alle assistenti. Ma secondo me sì, uno è venuto, qualcuno sarà venuto. Cioè Filippo, niente. Sì, può essere, perché sai, abbiamo tante... Sono cose che fanno piacere, sapere queste sono cose. Sono molto strani i pazienti. Sì. Sono molto strani. Vabbè, allora, senti se sei d'accordo. Io direi a tutti quelli che ci ascoltano, tutti i maschi, se volete, no, il naso, gli occhi, gli zigomi o la bocca di Filippo Roma, andate sulla nostra pagina Facebook, no Filippo? I Fuori Posto, naturalmente il titolo della trasmissione, ve lo consiglio perché la mia bellezza fa sì che io possa avere tantissime donne. E Giacomo Urtis, il medico dei VIP, vi farà uno sconto del 20%, va bene Giacomo? Va bene, accordo fatto. Io quasi quasi. Tu ce vai? Vuoi diventare come me? Con la tua foto, sì, vorrei diventare come te, Filippo. Grazie Giacomo, ciao, ciao Giacomo. Cari, grazie a voi, ciao. Vabbè, Umberto, se vuoi diventare come me, fammi una foto. Posso essere sincero? Sì, di. Ho avuto un momento di ammancamento, cioè di disgusto, sì, quando mi ha detto i glutei di Filippo Roma, cioè una roba orrenda. Cosa non vanno i miei glutei? Sono fantastici. Guarda, io sui glutei di Filippo Roma mi fermerei, farei qualche minuto di pausa. E cadere soprattutto un velo pietoso. Sì, ci vediamo tra poco, sempre qui ai Fuori Posto, Radio 24. Noi di Radio 24 per le Olimpiadi ci facciamo in due. Doppio appuntamento infatti in diretta con me, Carlo Genta, ogni giorno da lunedì a venerdì, tutti convocati dalle 14 alle 15 per tutti i temi sportivi. E raddoppio con tutti convocati alle Olimpiadi, sempre da lunedì a venerdì, dalle 18 alle 20, con me e con Giovanni Capuano e tutti i nostri ospiti e inviati, per non perdere proprio nulla di questa incredibile estate di sport. Fuori Posto. Nunzia, ricordo quando era strana, tu che la face padana, Nunzia, perché non ritorni? Sta musica è un po' inquietante. Io Filippo, quando sento questa musica tremo sempre, Umberto. Sì, tremo, sì, tremo. Anche io. Solo che, diciamolo, Ciruzzo Tozzi, no? Il nostro esperto di economia, grande, no? Economista, è una tua idea, giusto? No, mi dissocio, questa è stata una tua idea, Umberto, perché tu mi hai detto: Filippo, siamo a Radio 24, bisogna fare per forza una rubrica di economia, se no questi non sono contenti. Io ti dico: ma con chi la facciamo? Tu ce l'ho io l'economista, ce l'ho io, ce l'ho io, ecco qua. Sì. Quindi diciamo che siamo pronti per il nostro momento di fuori economia. Ci colleghiamo, non so con quale città, ma dall'altro cavo del telefono c'è Ciruzzo Tozzi, giusto? Sì, sono io, scusate, sto al semaforo. Come al semaforo, Ciruzzo? C'è il rosso qua, ma, è rosso? Ma scusa Ciruzzo, non stai a Wall Street? No, sto qui a Mondragone. Manco a Milano, a Piazza Borsa, no? No, scusate, qua c'è il rosso. Sì, vabbè, ma rosso, sto 2 ore, sto rosso. Vabbè, c'è il vigile? No, e passa, vai. Stiamo in piena rubrica fuori economia. Siamo a Radio 24. Rosso relativo, come dice Tiziano Ferro. Ma a parte Tiziano Ferro, no? Oggi parliamo di un argomento molto importante, quindi concentrati, va bene? Sì, quindi... sono concentrato, ragazzi. Faccio un saluto a tutti voi, ma può essere circolare, una mitragliata di pace, lo vostro Ciruzzo Tozzi. A proposito, voi che siete a Milano, mi salutate mio cugino Umberto? Ma no, che c'è, che usiamo la radio per fini privati, Ciruzzo. Vabbè, mio cugino Umberto è un artista grande, no? Ciao Umberto Tozzi. Perché sei parente del cantante? Incredibile. Certo, non lo sapevate questa. No, ecco, infatti il cognome è quello, ma non pensavo. No. Ma non avete sentito la canzone un po' con Sì, era un po'. Scusa, come mai Umberto Tozzi ha avuto un grande successo e tu no? No, perché mi copia le canzoni, io le scrivo io, così no, film, no, no, io mi dissocio da questa cosa. Chiaramente ti prendi la responsabilità delle affermazioni che stai facendo, te li prendi la responsabilità. Per esempio, Gloria, che è un grande successo di Umberto Tozzi, tuo cugino. L'hai scritta tu. Ma sono due canzoni diverse, non c'è niente. No, te la faccio ascoltare, non so se c'è, no, te la faccio ascoltare, ma una cosa è Nunzia. Nunzia fa esattamente così. Nunzia, ricordo quando era strana, tu che la face padana. Questa è Nunzia, questa è Nunzia, che questa è Nunzia. Che c'entra? Ti amo, momento ti amo, perché ti amo. Ti amo, no? Quindi sì. poi amo. Scusa una cosa, ti amo è del 78. Tu quando hai scritto Nunzia? Ma dai, ragazzi, ma per favore, non lo denuncio perché è un parente. È anche magnanimo. No, ti amo fa no, perché per confronto poi la risposta ce la danno quelli che ci stanno ascoltando, no? Ti amo fa esattamente così. Ti amo, solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti. Sono due cose totalmente scacchio. Anche il nostro regista Andrea, no, che è un esperto, dice che non c'entra niente. Vabbè, dai, facciamo bene. Io ci ho fatte tante altre. Vabbè, adesso dobbiamo parlare di economia, dobbiamo parlare Seria, Ciruzzo. Ciruzzo, a proposito di economia, no? Quando è alle strette, vuole parlare di economia. Allora, guarda caso. Allora, cosa ne pensi dell'andamento della borsa di questi ultimi giorni? Fate il collegamento con me che sono napoletano e fate sempre le stesse cose, sempre questi luoghi che volete sentire la mia, come penso sulla borsa, queste cose. Che dici? Non mi sembra una cosa veramente... Ma pure io sono della provincia di Napoli, che c'entra? Ah, sei la provincia? Io sono di Torre del Greco, quando vai fuori dici pure che sei di Napoli, invece... Che c'entra con la borsa? Io sono di Torre del Greco, orgoglioso di essere di Torre del Greco. Lo sapete che a Torre del Greco c'è il cugino di Raffo? Ma che c'è? Tutto ce ne frega niente, no, scusa Ciruzzo. Prendiamo atto. Comunque il cugino di Raffo di Torre del Greco si chiama Raffa Lauch. C'è una notizia molto interessante, grazie Ciruzzo, ma noi vogliamo parlare di borsa. Va bene, parliamo di borsa, ok. Parliamo di questa borsa, il problema? La borsa è un problema oggi? Il problema, sì. I titoli scendono, salzano. I problemi, dobbiamo parlare della borsa. Succede, no? Capitano. Che qualche volta può capitare lo scippo, te la tolgono. Non è che solo a Napoli c'è il problema della borsa che si scippa. Ciruzzo Tozzi è scemo. Ciruzzo Tozzi si conferma un disastro. Ma no, la borsa in pelle, la borsa quella di Wall Street, Piazza Affari, Francoforte. La borsa di Francoforte, ho capito, la borsa di Francoforte, di chi? La di borsa Franco. Di Francoforte. Sei stato a Francoforte? Di... Sì, come la conosco una borsa di Francoforte, un mio amico. No, che ne amico? Non è Franco, no, la non è Francoforte. Non è Francoforte. C'è una borsa bellissima. Lui è Francoforte è una città che sta in Germania, dove c'è la sede di una delle borse più importanti d'Europa, no? Tu che sei economista lo sai, no? Le borse più importanti di Europa dove stanno? A Francoforte. Non è la borsa di Franco. Borse a Napoli che se le sognano a Francoforte. Noi facciamo delle borse, certo, non sono sempre tutte quante quelle originali, che le facciamo tale e quale. Proponendo delle borse false. A proposito di economia, se volete risparmiare, parla italiano. Un bel consiglio agli ascoltatori per risparmiare, vai. Benissimo. Allora comprate le borse qui da noi, che io ho delle borse, per esempio, che sono uguali, per esempio, a quelle di Vuitton, Louis Vuitton, quelle là dovete avere Vuitton. Ma sei cretino? Prendete queste qua mie che sono state qua, poi anche, per esempio, quelle di Fenty. Ma sei cretino? Sì, magari pure Gucci. Certo. Non parliamo di Gucci perché... Lasciamo stare Gucci. Parliamo di Gucci. Io ho le borse di Gucci che sono proprio le borse che ci hanno anche Allora, l'odore incorporato di Gucci. No. Cioè, produrre... No. Ti fermo perché ti dico... l'odore del profumo. No. Ma quale Gucci? Allora, ti dico subito che produrre borse o qualsiasi altra cosa, no? Che imita... una grande griffa è un reato penale, si va in galera. Si chiama contraffazione. Sono d'accordo con te, però si vende come le fai, se sotto le quali. E tu le fai uguali? Ma sei pazzo! Uguali, che quello che le compro dietro di me, non che dice. Umberto, porca miseria, guarda, se per colpa di Ciruzzo ce lo dobbiamo far arrestare. Che quello se le compra stesso poliziotto e magistrato. Ma che stai dicendo? Frasi forti? Frasi forti? Come le vede tale quale? Dice, mamma mia, che sono tale quale. Ma che tale quale? Ma sono quelle là un po' È vietato acquistare borse contraffatte, diciamolo, se no Umberto qua finisce. Assolutamente sì, e noi prendiamo le distanze. Ogni volta dobbiamo fare una rubrica di economia e va finito, dobbiamo difenderci dagli assalti della giustizia ed è un disastro. Avete mai sentito parlare di falso d'autore? Falso d'autore. Allora, noi volevamo parlare di borsa, no? I titoli che salgono, scendono. Il rialzo. Consiglio? Sì, finalmente. Un consiglio per i nostri radioascoltatori, no? Per tutti quelli che ci ascoltano. Su Radio 24. Come investire in borsa? Come investire dell'economia, vai. Benissimo, prendete le vostre borse, le riempite. Siccome oggi è molto dura questo fatto delle borse, che c'è gente che prendete le vostre, le riempite, me le date a me, io ve le consegno. Ma la mia cassaforte le borse. Ciruzzo, sempre per i cazzi tuoi qui tu lavori, è a me, io ma bello conservo, e così voi state sicuri e dormite fra due cuscini. Però devo dire che questo consiglio di Ciruzzo, no? Caro Filippo, è apprezzatissimo da una nostra ascoltatrice, Donatella. Si parla di borse alla fine. Donatella, no? Vedi Ciruzzo ogni tanto ci acchiappa. Ha bucato. Donatella ha mandato un WhatsApp al 349-2386-666 e dice: io la mia borsa la darei volentieri a Ciruzzo. Vedi Ciruzzo, hai rimediato una borsa finalmente. Sì, a proposito di borsa la darei volentieri a Ciruzzo, Donatella. Io giocami dove stai andando, stai fermo. È italiana o è brasiliana? Perché se lei mi dà la borsa e io per esempio voi andate sul vocabolario e vi dite cosa significa borsa in brasiliano. Vagamente intuito, ma lasciamo perdere. Dammi la borsa, diciamo, in italiano, me la può dare pure in brasiliano. Sì, un gentleman. No, hai capito? Sono un gentleman. Gentilmente io prometto la borsa. No, ma sei un cafone. Alla verità, sei un cafone. Non spostare con la bocca. Non è che è esposto con la bocca, sei un cafone. No. Tu prima mi chiami, io sto qua a casa mia a fare i miei concerti, i miei spettacoli. Quella che riparla dei suoi spettacoli, questo. No, non ci voglio parlare, mi spa. Poi aspettate, scusate ragazzi, sono così, una domanda così. Ma a Milano voi avete bisogno di qualche neomelodico originale? Ma che c'entra sta cosa qua? No, che ti vuoi fare una marchetta? Falsi, capito? Ma che vuoi fare una serata qui a Milano, scusa? Sì, perché voi parlate sempre di cose originali, eccetera, però voi vi prendete i neomelodici falsi. Dovete avere un neomelodico originale. Io sono l'unico che c'ha il neo sul viso. Ciruzzo, guarda che ci stanno tanti altri neomelodici, no, a Napoli. Ma c'è il neo, però, come me. Io c'ho un neo. Ma okay. dove c'è lei sto neo? Sulla faccia, lo schiatto e c'è la canzone. Ma che schifo, che è come jukebox, il neo schifo. Pensa con sto caldo immaginare una persona orribile, guarda, come lui. Guarda, ma... che a Milano le persone sono eleganti, vestono bene. Solo a Milano sono elegante. Che c'entra? Si impressiona a vedere il neo che si schiaccia. A Napoli voi ci abbiamo sempre queste cose, dovete fare voi solo a Milano, elegante, no, a parte che anche qui a Milano ci sono tanti cantanti bravissimi, quindi ci sono cantanti Pupo di Milano? Ma no, che c'entra? Pupo è Toscana, cantanti bravissimi, cioè, che ne... per esempio? Che ne so, c'è Eros Ramazzotti. Noi ci abbiamo Peppe Salamari. Dimmi il nome, dai, che fai sempre tutte sparate le pose voi. Ma che sparate le pose? Parliamo di economia e poi parliamo alla lasciamo perdere. Appunto, ma noi vogliamo sempre parlare di economia, ogni volta tu ci porti fuori per sempre per parlare dei cazzi tuoi. A diciamo, proposito di economia, posso fare una domanda a voi? Mo è lui che ci fa domanda a noi. Se mi prendo Eros Ramazzotti da uno di voi, me lo fa uno spettacolo a 1000 euro qua a un matrimonio? Ma che 1000 euro? Non so quanto costerà. Ma Ramazzotti costa delle cifre astronomiche. Allora di che economia stiamo parlando, ragazzi? Di che cosa di economia? Ma noi parliamo di macroeconomia. Intanto abbassa i toni perché siamo tre amici, siamo su una radio istituzionale che è Radio 24, quindi ti invito, no, a mantenere dei toni bassi. Capito? Va bene, un attimo, abbassati. Oh, meno male. Ma che, beh, pronto? Ecco. Abbassato. Sì, ma non il tono della voce, bene. Non il tono della voce, i toni dei contenuti. Toni? Vabbè, ragazzi. Vabbè, ragazzi. Basta, Ciruzzo, oggi ti cacciamo via, basta, ci hai rotto. Fuori Ciruzzo da Radio 24. Via. Portatemi il mio cugino Umberto. Basta, attaccate al telefono. Basta, quale cugino? Basta. Attaccate Ciruzzo perché non ne possiamo più, Basta. Vabbè, sempre Ciruzzo Tozzi, sempre fuori economia, vedi? Qui finiamo nei casini, qui prima o poi ci arrestano. Tu mi hai promesso un economista e mi hai portato Ciruzzo Tozzi. Facciamo così, Filippo. Sì, io direi che dopo questo momento ci dobbiamo prendere qualche ora di pausa. Diciamo anche una giornata, infatti. Sì. Salutiamo i nostri ascoltatori e andiamocene. Allora, prima di salutarli io ricorderei la nostra pagina Facebook che è I Fuori Posto, giusto? E a questo punto, già che ci stiamo, ricordiamo anche l'indirizzo ifuoriposto@radio24.it per chi vuole scriverci mail, segreteria allo 0246524182 per chi vuole lasciarci dei messaggi, infine Umberto, gli SMS dove? SMS o WhatsApp? Tu sei vecchio e dici ancora SMS, no? Amico, ma WhatsApp sto grande amico. Al 349-2386-666. Per oggi è tutto, noi ci troviamo domani puntuali qui alle 10 su Radio 24 I Fuori Posto. Ciao!